dimmi che le gambe c'è, tra il lenzuolo e la tovaglia, dimmi che le gambe c'è, se tu mi mangi io mangio te, dimmi che le gambe c'è, tra il lenzuolo e la tovaglia, dimmi che le gambe c'è, se tu mi vedove, a monache vedove.